Ah, assolutamente, non vedo l'ora. Quindi se ti... Cos'è il W? È il Laura W. Voltolino, sei diventato un co-conduttore coxico occasionale. Wow! Sì, non sono mai stata co-conduttrice coxica occasionale. Queste cose capitano qui ed ora, in questi momenti di venerdì verso le 8 di sera. Questa sera... E dopo Halloween. Sì. E questa sera è capitata a te. Io sono contentissima di vederti in W. Grazie. Guarda, sei ancora più bella perché devi sapere, caro Stefano, che ogni volta che tu non ci sei, io mi porto delle ospitesse che sono delle super G. Lo so benissimo, lo Grazie. Fai apposta. Mi delle raccomando, fotografa, perché dopo sì, su www.coxospaziale.blogspot.com non possiamo non vedere quello che vedi tu. Mm-hmm. Hai qualche curiosità da chiedere alla tua insomma alias? O qualche consiglio da dare per dammi dei consigli, va. No, qualche consiglio da dare non credo. Non toccare quel tasto lì, quello giallo. No? No. Ops. Ci sono tutte le presenze che si sono agitate a guardare dove era il tasto giallo. Fra l'altro, esatto. Siccome c'è stato... Hai seminato il panico. Fantastico. No, perché sono presenze eteree, giustamente, però se si appoggiano sul tasto sbagliato, poi capitano cose... Senti questi rumorini, ecco la seggiola. Non è mica Laura questa. Post-Halloween, esatto. No, sono le presenze. e poi ti devo dare questa novità, perché giustamente c'è stato in questa notte di trasformazioni, giustamente c'è stato anche il cambio dell'ora legale, e tu puoi immaginare a questo punto i nostri 8 orologi che abbiamo in studio a che punto sono. Non oso pensare. No, infatti, e dunque che ore fanno? Le 7? Allora, uno fa le 9:14, l'altro fa le 20:12, un altro le 21:12 e nessuno fa le 19:12. Dal vostro lato che ore fanno? No, sono abbastanza coordinati, mi stanno sulle 20:14 e l'altro più o meno 20:13, dai. Sono d'accordo, okay. Abbastanza d'accordo. Ma deve essere successo però qualcosa. Però forse quello delle 20:13 è fermo. Questa è anche la musica di sottofondo, giusto? Senti questo. Sì, sì, mamma mia. Non canterò sopra la musica di sottofondo, però rispetto al nostro W che ci ascolta in treno. Ma dove stai andando, Stefano? Io sto tornando a Bologna dopo essere stato da Sissima. Ah, quindi la fiera d'arte contemporanea di Torino. Ma senti un po', vuoi darci qualche scoop per il nostro pubblico? Andate. Rimane una delle fiere d'arte contemporanea più interessanti che ci sono in Italia. Ci sono un po' di lavori di nuovi giovani interessanti e comunque gallerie di altissimo livello, sia italiane che straniere. E quindi la prepariamo una Coxo Review per la prossima puntata? No, perché la prossima puntata dovremo parlare del forum per l'arte contemporanea che ci sarà al Mambo il giorno dopo. Vabbè, allora sì, rimaniamo più in zona. Io ma ci dai una chicca di questa review? Ci dai una chicca della review? Così, una cosa sola? Della review di Artissima? Sì. Sì, Carol Rama, la collezione delle opere che Carol Rama ha regalato a Edoardo Sanguinetti nel corso della loro amicizia, e c'è questo piccolo stand pieno di piccole opere veramente meravigliose. Carol Rama è un'artista fantastica, per chi non la conoscesse mi raccomando venite a Torino a vederla, ma soprattutto regalate a Sanguinetti, che per me ma Sanguinetti ormai potete regalare dei fiori a Sanguinetti. No, certo, ma ovviamente presuppone un rapporto in vita. Sì, certo, oggi è il giorno anche dei morti. No, scusa, c'è un gran casino su questo treno e l'avevo letto come un imperativo: regalate a Sanguinetti. E cioè, ormai poverino gli si può regalare poco, purtroppo se n'è andato troppo presto, sì, purtroppo è così, e purtroppo anche lui ci può regalare poco di scritto o di parlato. Sì, ma comunque noi abbiamo la tua alias in W, che intanto che tu davi nomi e cognomi e coordinate stava già smanettando sulla tastiera. Caro Rama, mi piace parecchio. Ecco, nella certo, mia ignoranza, ti deve grazie Stefano, parecchio. Questo veramente... Anche a te, Fedra, ti deve piacere parecchio, caro. Io però sono dall'altra parte del vetro. Ma sto memorizzando tutto. Guardo poi le facce degli ospiti, anche loro, anche le nostre apparizioni... Sì. Annuiscono vistosamente. Sì, sì, sì, sì. Quindi... Molto bene. Ma vistosamente, cioè. Ah, stanno anche additando con... Questo vuoi? questo qua. Ho sentito qualcosa, ho sentito qualcosa. Questo. Perché senti? Vuoi ingrandirlo? No, adesso è meravigliosa perché la nostra mediatrice sto cercando di capire cosa mi dicono le presenze silenziose, ma sai, sono silenziose, quindi questo è quello. Però ci piace sì. No, gli piaceva una un quadro dici. Di Carol Rama. Quale quadro? Che magari Stefano l'ha anche visto. Dunque, rappresenta un nudo con una parte genitale. Però continuate pure, sì, io no, capisco che malgrado ami Carol Rama, non credo di conoscerne, di poter capire che, di che lavoro state parlando. Ma si chiama, leggo da zio Google, Irregular. Dice Idilli del 1996, ti dice qualcosa? Ho capito, no, non mi dice niente, ma però vado sulla fiducia. Perché allora, io no, qua in studio è molto piaciuto, diciamo che nella schermata è stato benché ce ne siano altri. Facciamo così, io adesso che mi sto prendendo abbastanza bene dalla situazione, sono curiosa, quindi mandiamo un pezzo, salutiamo Stefano e vengo di là a vedere quest'opera. Sì, aspetta che torno. Esatto, facciamo così. Allora, buon rientro Stefano e settimana prossima ti auguro una buona coxata, perché tanto abbiamo ricominciato la tradizione, coxi separati. Certo, di nuovo tu non ci sarai, io tenterò di chiamare tutti quelli che partecipano al Forum dell'Arte Contemporanea al Mambo il giorno successivo, tutti quelli che sono già a Bologna giorno prima li porto a Cox Spaziale. E quindi avrai un super coxo gremito di presenze anche tu. Chissà che le tue parlino. Infatti, ma poi li faccio parlare tutti insieme. E intanto metto su della musica. Ottimo, ottimo. Quindi rinviti anche il tuo amico DJ, immagino, il tuo adepto. No, il mio amico DJ direi che lo salutiamo caramente, ma per un po' magari lo lasciamo fare il DJ da solo. Va bene. Allora, buon rientro, tante buone gallerie e saluti Coxici per una grande domenica. Anche a te. Un bacio a tutti quanti, soprattutto a Gippo che ci sta ascoltando. E ti saluta anche la W? Sì, ciao, ho salutato. Avevo il volume giù. Ah, non... ma si mi ha risposto. Quando faccio così, ripeti. Ah, ok. Ok, allora ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Ciao. No, penso che amica è una certa lei. Aspetta, è che vediamo se. Perché questo è ancora occhi. Sì, ecco, tipo col sangue, bello. Aspetta. Tanti occhi. The star closes it soon. sembra un po' Scile, sembrano i pezzi mancanti delle donne di Scile. Pare che questa Karen ci è piaciuta. Com'è Karen? Che era? Carol Rama, ok. È morta tre anni fa, eh. Ah, proprio, cioè, alla fine Sanguinetti non è morto molto prima, credo. Non lo so, adesso controllo, Mo sei troppo sul pezzo, sei così sul pezzo che mi sei riuscita anche a far esprimere le presenze, che infatti io... Eccola. No, ma le presenze perché hanno bevuto, cioè si stanno esprimendo. Allora, Sanguinetti nel 2010. È passato già così tanto tempo, renditi conto, mi sembra. Comunque lei aveva 97 anni, ha prodotto un sacco di roba. E da domani su www.coxospaziale.blogspot.com qualche pubblicazione delle opere selezionate da parte del nostro gruppo di presenze. Beh, se ci impegniamo. Quindi, noi siamo arrivati al 241esimo Coxo e io sono estremamente contenta, fiera, prode non c'entra, però molto orgogliosa, coxolosa di avere come co-conduttrice occasionale che veste in W Laura Voltolina. Ciao. finalmente sì. Meravigliosa e unica. Beh, tutta così verde mia. In questo grigio, come stai tono su tono, anche sul come niente e anche insomma senza saperlo, vero? E poi è una puntata estremamente straordinaria perché tu mi sei co-conduttrice occasionale e i veri ospiti della puntata sono le presenze, esatto, che non si esprimeranno se non attraverso di te. Ciao presenze, salutano. Bene, a questo punto, questa situazione un po'... cambiamo la musica di sottofondo, che questa sì, è un po' troppo... Qualcosa di più. Sì. Cosa... verso dove vogliamo andare? Dove vogliamo spostarci? Beh, con una musica così... Io mi sposterei verso l'invisibile, visto che le presenze sono invisibili. Cioè... non parlano, sono visibili ma non parlano. E queste presenze potrebbero esprimersi attraverso qualche canale di comunicazione esoterico, come ad esempio... Dei suoni? Oppure il lancio delle monete? A tal proposito... Adesso c'è un piccolo... Dicono che non sulle monete, mi sembrano d'accordo. Sì, ho visto. Secondo me sono d'accordo per il parcheggio. Beh, comunque fortunatamente c'erano anche... Ecco, questa è una prima moneta. E vai. Poi serve anche di che scrivere. Sì, serve carta e penna, ma con calma. Io adesso. Ho la penna. Le monete le abbiamo. Che bella voce che c'hai, Laura Voltolina. Ti piace? Sì, anni e anni, sai. Che ce l'hai? Anni e anni che ce l'ho. La penna c'è e poi... nel serve un caso, foglio perché farlo 333 180 94 94 se qualcuno vuole rivolgere qualche domanda alle nostre presenze, ad esempio tu Gifo, che so che ci stai ascoltando. Ma chi è Gifo? Gifo Fuga per Art, che però adesso si chiama Orchestra Moroni. Sì, è uno dei nostri fan, abbiamo un fan del Coxo ed è Gifo. Anche io sono una fan del Coxo, solo che a Padova non prende, mi posso ascoltare è in streaming podcast. In streaming? No, in streaming live ci puoi ascoltare. E fra l'altro anche Gifo ci ascolta dal Veneto. Dai, ciao Gifo. abito a Padova di solito. Siamo compaesani. Bene, le presenze si sono... Le presenze ci sono, sono pronte e... ci serve ancora un supporto cartaceo che però pare brutto, Borges. Ah. Sì. Però abbiamo la carta delle patatine. Allora, già che le presenze si sono allargate. Fatte aperitivo, ma ci sono ancora le patatine nella carta delle patatine. No, ma c'ho questo, guarda, basta questa cosa. Sì. Ma lo sai che sei talmente... Vai con la domanda. Sei talmente brava a... io vorrei chiedere qualcosa... su come condurre questo viaggio coxico nel dialogo con loro. La presenza annuisce, pare che abbia capito la domanda. Io non ho capito, la domanda, ma la presenza l'ha capita, quindi... Shh. Cosa è successo, Voltolina? Ha lanciato la presenza, ha lanciato 3 monete. Quindi tu hai visto le monete gettarsi nell'aria e poi scendere sul tavolo? Sì. O vedi oltre tu di queste presenze? Ma diciamo che vedo anche un po' oltre, essendo di qua dal vetro riesco anche a vedere oltre. Ok, e sono tutte e due sono attentissime. Dedite a questa... ci sono delle linee, dunque una delle presenze ha disegnato una linea, un pallino, un'altra linetta. Lancia di nuovo. E ha lanciato di nuovo. Quindi c'è una presenza che lancia e scrive e l'altra che coaudiova. Coworka. È una W. Anche lei, la W presenza. È una W presenza. Abbiamo 2 linee adesso, tutte intere. Siamo già alla 3ª linea. Mi piace questa... Mi suona qualcosa di conosciuto. Sento dalla musica, mi sembra di capire... Non è un oracolo? Quella cosa che... Quella cosa... Sì, si sta aprendo anche la musica, in effetti. Sì. Siamo forse vicini alla soluzione. Forse sì. Credo che sia zio Google a un certo punto, però perché le presenze per quanto onniscienti, capisci? L'onniscienza anche della presenza. Ma si sta dando un sacco da fa sta presenza. Sta lanciando monete come se non ci fosse un domani. Ah, aspetta. Oh, allora è arrivato un messaggino. Ma guarda, cosa ci chiedono? Ho come ospite fisso in casa mia il fantasma di Lou Reed e anche quello di David Bowie. Ah, Lancelotti Stefano, via Malvasia 37, Bologna. Bene, ma ci fa piacere. Perché non ce li mandi qua che continuiamo appunto, la puntata, cioè, ancora per mezz'ora? Perché anziché darci il tuo indirizzo non ci mandi Lou Reed e David Bowie? Sì, che fra l'altro ci pensavo recentemente a Quattro David Bowie. Quattro chiacchiere non ci dispiacerebbero con David Bowie. Sì, ma anche con Lou Reed, no, per carità, Reed. Insomma un po' però, più. E scusami, tu Lancelotti Stefano, con quale dei due ti trovi più a tuo agio? Ma chiacchierano solo tra di loro oppure interagiscono anche con te? Ma suonano soprattutto, perché parliamo poi... Insomma, fanno il loro mestiere. Facci sapere che è un tema molto interessante. E grazie. Intanto qui cosa sta succedendo? Qui sta succedendo che le presenze hanno finito di lanciare monetine, tutto tace. Credo che stia per arrivare un'interpretazione. Non so come farà a spiegarcela, perché... Eh no, sei tu che devi dice entrare... che sono fatti miei. Ha proprio chiaramente indicato. Tu ovviamente sono fatti tua. Ti metterai in connessione. Io sono connessa. Ti lascerai anche le cuffie, agire, ad abitare. Esatto. Cosa devo fare? Ti lascerai agire ed abitare e attraverso le tue labbra proferirà. Questa presenza è molto più grossa di me, mi allarga se... cioè. Ho sentito qualcosa. Ho sentito e non sembrava la tua voce. C'è una sedia che cigola. Ah, la presenza è qui. Ha deciso di abitare la sua sedia e non la mia. È già qualcosa. Chiede tempo. E non lo so, quindi a questo punto cosa facciamo? Bene, mettiamo un secondo brano? Mettiamo un secondo brano. Che brano mi metti? Ma io potrei ma mettere... Ma non abbiamo niente di David Bowie, giusto per invitare... Allora lo cerco, entrati in un'altra, continua a coxeggiare per 2 minuti per che lo trovo. Miei, sì. No, lo cerco, Sì, però lo mettiamo da YouTube perché... Ma si può, no? Si cioè, può. Io adesso non ero neanche mai stata in radio in vita mia, mi sembra che qua dentro si possa fare di tutto. Cioè ci Vero? Sono le presenze, gli oracoli, Lou Reed, il mondo di fuori che cerca di entrare... più o meno. In realtà Lou Reed è a casa di Stefano. Fa anche abbastanza caldo. Comunque ti dico che l'orologio, quello del... non era fermo. No, si è spostato, muove. Però all'indietro. Sai com'è. Bene, allora, di David Bowie, che cosa vorremmo ascoltare? Perché io stavo pensando a qualcosa da Black Tie, White Noise. No, ma tu continua, ma le presenze? Allora, c'è del movimento, si consultano fra di loro. La coadiuvante non è d'accordo. No? No. Ma come va? Credo che se, perché penso che l'oracolo abbia fatto un errore di... Aveva ragione la coadiuvante che... La fortuna del principiante, dice l'oracolo principale. Ah, santi numi. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che non funzioni YouTube? Vabbè, se non funziona... Ma questa... cosa mi hai messo? Questo non è... È la colonna sonora di Utopia. Ah, ok. Ah, è vero. Sì, sì, sì. Sai che ero, che nostalgia. Sì, peccato, vero? Ma sai che penso che me lo rivedrò? Magari lo faccio vedere anche alle presenze. Ma conoscete Utopia? No, nessuno dei due. Negano. Stanno studiando come dei pazzi. Ma questo significa che quello che seguirà in questi 20 minuti che sono rimasti di trasmissione sarà estremamente ricco. Non arriveremo alla conclusione, all'interpretazione dell'oracolo nei prossimi 20 minuti. Però possiamo darla, comunicarla a Stefano per la settimana prossima. Possiamo fare una valutazione a ritroso. Ok, sì, io intanto ho trovato finalmente un link, direi questa, che era il primo singolo uscito dall'album. Vediamo se ci mettono la pubblicità prima. Non mi fregate questa volta. È già capitato, vero? He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say. Jump. They say. Allora, Salutiamo intanto Stefano Lancellotti, che di nuovo, sempre che si chiami Lancellotti, ma comunque che è lì con Lou Reed e David Bowie. E David Bowie è stato un po' anche qui, quindi grazie sì, sì. Stefano. Sì, infatti grazie, perché era un secolo che avevo voglia di ascoltare anche quest'album, ci pensavo proprio anche negli ultimi giorni, e quindi grazie a te e alle tue presenze. Salutaceli anzi, veramente, perché sì, sono sì, dei grandi. Sì. E Stefano continua a scriverci: la discografia di Bowie è talmente vasta che non la conosco tutta nemmeno io. E io a questo il punto... Che è significativo, evidentemente. Sì, forse è per quello che David Bowie è andato a stare insieme a Lou Reed da Stefano. Per istruirlo? sì, perché le vastitudini... Beh, in effetti, lui, le vastitudini Stefano è capace di cogliere, è cosciente e quindi può avere... Perché fai in questo... Sì, perché sennò... Cioè non è che viene a casa mia, non è che trova tanto, invece va a casa di Stefano e trova il terreno fertile. Esatto. Certo. E in più mi verrebbe da dire, a proposito di discografie vaste, che magari questo potrebbe essere lo spunto per la prossima ricerca su YouTube, visto che ormai sono sgamata, sì, la discografia di Frank Zappa, che forse ci mancava questa, è anche più vasta di quella di David Bowie. Non so, la gara è dura. Che ne dici Stefano? Frank Zappa mica ti è passato per il soggiorno recentemente? Magari è nato dai vicini. Comunque, tornando a noi, mica spazio per tutti lì da lui adesso. Oh. Ma poi le presenze si sa, tu adesso sei circondata, no, una moltitudine. Sono ingombranti, cioè qua c'è stato tutto un lavoro finché... Perché per quanto lo studio di Radio Città Fujiko sia spaziale, in è realtà... spaziale, ma le presenze sono anche, cioè, non roba improvvisata. No, va bene. Presenze che ne sanno. Comunque io ribadisco 333 180 94 94... E chi vuole cogliere colga. Cogliete. Per chiedere. Allora Fedra, scusami, sì, tu avevi fatto una domanda prima che le presenze avevano capito, sì, io non avevo capito che la cosa mia domanda, in senso la mia domanda era: come mai queste presenze sono al coxo? Allora, le risposte sono 43 da interpretare, perché me l'hanno anche. Allora, la prima sono articolate. Diciamo che è una risposta in movimento, non c'è una situazione statica. Infatti, ed è chiaro perché ci siamo, sì, anche scambiati. Infatti, ti vedo che non so che come, mi sposto, ma sei diventata. Sei mi hanno scalzata dal computer, capisci? Ah, sono delle presenze informatizzate. Stanno prendendo il sopravvento, sì. Ok. Non so cosa ne sarà di me i prossimi 5 minuti. Beh, è importante anche perché dobbiamo andare a mangiare le crescentine. Io voglio tanto le crescentine. Anch'io, ne ho tanta voglia. Ma le fate mangiare le crescentine? Dicono di sì. Ha detto di sì. Cioè, l'ha detto, La presenza aiutante dubita. La W in seconda dubita. Però quindi, che numeri sono? Allora, il primo è lo straripamento, che è chiaro che è quello che sta succedendo qui. Aha. Un certo straripamento. Che però mi diventa l'assillo. Che anche questo... Sono inquietata. Se parliamo di crescentine... quello di domani. Sono inquietata. Io intanto sto cominciando a capire come si usa questo smartphone, che sembra però un iPad, non si capisce. Stefano, beh, questi sono i potenti mezzi del coxo, eh? E quindi lo straripamento, ci sono delle informazioni aggiuntive? Sì, abbiamo delle linee mutanti. Mutanti, anche quello, certo, ci interessa, perché, se vuoi ti leggo cosa dice esattamente l'oracolo dei Qing, non l'oracolo quello presente vicino a me. Aspetta. Ok, sì. Tieni. Ok. Allora mi sento che potrei farlo io. E la regina dette alla luce un figlio che si chiamò Asterione. E poi? E poi, è la mia storia preferita. So che mi accusano di superbia e forse di misantropia. Oh. E forse di pazzia. Sicuro. Tali accuse, che punirò al momento giusto, sono ridicole. È vero che non esco mai di casa, ma è anche vero che le porte, il cui numero è infinito, restano aperte giorno e notte agli uomini e agli animali. Entri chi vuole. Era questo il numero? Secondo me sta più verso l'assillo che lo straripamento, però sì, era questo il numero. Un assillo. C'è una nota a piedi pagina. Se vuoi ti racconto una cosa su quella nota, però è la parte fighetta di me, la parte colta, quella che posso anche chiuderla fuori perché sono più sulla crescentina, no, che ma su visto che comunque siamo in apparizioni, presenze, ma lascia esprimere anche quella parte fighettina. Allora, quella parte lì nella nota a piedi pagina dice che le porte erano 14 e che per Asterione c'erano motivi per credere che Asterione ritenesse che per lui 14 erano infinite. E c'è un'altra storia, che è una storia egizia, mm-hmm. È una storia della Mesopotamia, ed è la storia di Iside e Osiride. Osiride viene fatto a pezzi da Set, e Iside lo va a cercare, mette insieme i pezzi, insomma un casino, e i pezzi in cui viene scomposto il cadavere di Osiride sono 14, ovvero forse infiniti. Mm-hmm. Dio cade sulla terra. Chiusa. La verità è che sono unico. Non mi interessa ciò che un uomo può trasmettere ad altri uomini. Come il filosofo, penso che nulla possa essere comunicato attraverso l'arte della scrittura. Le fastidiose e volgari minuzie non hanno ricetto nel mio spirito, che è altrettanto solo grande. Penso che aver letto un errore. Non importa, vai avanti, era bello. Sei unica anche tu. È tutto il ritmo. Non ho mai potuto ricordare la differenza che distingue una lettera dall'altra. Anch'io, dislessia galoppante. Si chiama dislessia? Sì, sì, galoppante nel mio caso. È che all'epoca? No, all'epoca no. Un'impazienza generosa non ha consentito che imparassi a leggere. E nel mio caso poi ho dovuto... Però è stato quando avevo più o meno 28 anni. E sei ancora impaziente comunque. Sì, si vede. Sì. A volte me ne dolgo. No. Perché le notti e i giorni sono lunghi. C'erano un sacco di note interpretative su questo racconto che io sto strapazzando in maniera indegna, ma in questa avremo poi le presenze che verranno a tormentarmi anche dopo la digestione delle crescentine. Ed erano tantissime, perché questo qui è un bellissimo racconto, il nostro preferito, non a caso, di Luis Borges, che si chiama La casa di Asterione ed è dedicato, no, non lo leggerò mai con la pronuncia sbagliata. Vuoi provare a leggerlo tu? Ti ripasso il libro. Ci posso anche provare, non so di... non mi ricordo la dedica. Marta Mosquera Istvan. Ottimo. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Come la leggo io, Marta Mosquera Istvan, non legge nessuno. E in questo tratto parla in prima persona niente po' di meno che... il Minotauro, vogliamo dirlo insieme? Vai. Il Minotauro. Minotauro. E però lo fa come parlerebbe un qualsiasi bravo essere umano occidentale un po' disturbato, quale noi tutti siamo all'interno delle nostre... almeno una psicosi. Sì, sì, all'interno delle nostre pareti domestiche, dei nostri labirinti esterni ed interni. E perché, cara Laura, ci piacciono così tanto i labirinti? Ma sai che... chiediamolo a Licinio, così la settimana prossima. Lo chiediamo. Comincia ci dà la risposta tra un mese e mezzo. Settimanale. No, ma ritorniamo invece sulle indicazioni che ci ha dato lui, perché secondo me le presenze che si esprimono danno tante chiavi di interpretatura. Che dici? Metto un altro brano? Metti un altro brano, perché ho delle difficoltà con le linee mutanti. Potrei provare a cercare quel Frank Zappa lì. Ah sì, o così Stefano è contento. O se no una vecchia gloria. Ah, aspetta, una aspetta, vecchia aspetta, abbiamo un messaggino. Vediamo se riesco ad aprire. Ciao, sono Beppe da San Donato. Volevo sapere dalla vostra ospite Laura cosa ne pensa dei labirinti. Cioè, c'è rinformaticità, c'è cioè coxicità, spazio temporale. Un'anima gemella. E quindi Laura, cosa ne pensi? I labirinti non si pensano, i labirinti si sentono. Continuiamo. Bella, eh? Ho visto anch'io le presenze annuire. No, mi stai connettivizzando alle presenze. No, comunque, rispondiamo a Peppe, che è stato tanto carino da risponderci. Tra l'altro è arrivato anche un altro messaggio. Ma che cos'è questa puntata? Mai avuto tanti... È colpa delle presenze. Forse sì. Spingono. Allora, vediamo un po'. Abbiamo un... Ogni straripamento straripa in assilli, punto esclamativo. Quindi qualcuno che ci sta... Grazie, qualcuno che ci aiuta ad interpretare questa... E poi Frank Zappa... Attraverso una psicosi, chiaramente, perché... Frank Zappa, scritto Frank... No, Franco con la F, ma Zappa, da sì. Partinico. Partinico, cioè, è nata la mia amica Laura, fra l'altro, un'altra non Laura. Io, un'altra. Un'altra. Con la zappa, a Partinico. Ma tu non mungevi mucche l'altro ieri? Scusa, aspetta. Il cerchio ritorna e straripa su se stesso. Ma adesso tu rispondimi a Peppe, che vuole sapere da te dei labirinti. Perché? Cosa ne pensi dei labirinti? Perché esprimilo, sono affascinanti, però, secondo esprimilo te... in 45 secondi, così io trovo il brano di Zappa. 45, cioè, ci ho fatto una tesi sui labirinti. 45 secondi non mi bastano. Perché i labirinti sono... Facciamo allora 90 secondi? Ma fai quello che... Cioè, tempo, tu vai e io poi quando... No, tu vai e io poi... Cioè, tu vai con la ricerca, che io vado con i labirinti, sì, vai, che vai. Tanto è un po' il mio pane quotidiano. Labirinto rizomatico? Ma il labirinto rizomatico mi manca, onestamente. Ah, che bello. Allora mi poi... figata su quel... Allora poi, dopo che caspita, ho fatto... No, la crescentina chiede un approfondimento. No, i labirinti sono la morte e la rinascita. Sono la discesa dentro se stessi e il partorire se stessi. Sono il percorso che si fa per arrivare al centro e poi per uscire. E quindi quello che si incontra nel mezzo? C'era uno specchio in tanti labirinti, sia fisici che... ad esempio il labirinto che c'è sulla... No, lo saprei anche tu sicuramente questo. Il pavimento della cattedrale di Chartres aveva un labirinto disegnato... Il pavimento della cattedrale? Di Chartres. Percorrere quel labirinto lì, che è una roba di, con un raggio, fai conto, di una, non so, 10-15 metri, non è tanto grande, equivaleva nel Medioevo, nei tempi andati, al pellegrinaggio in Terra Santa. Ah! Quindi arrivare lì e fare il percorso fino al centro del labirinto, che è un cammino, è una cosa che ci si mette anche quanto, mezz'ora se va bene, equivaleva come potenza ad andare fino in Terra Santa, magari con una di quelle belle crociate, e tornare indietro magari anche. Wow! Io no. Non la sapevi questa? No, non la sapevo. Però quindi, io non so del rizomatico, quindi e siamo quindi pari. Adesso te lo dico prima o dopo che lanciamo un brano a caso da Uncle Meat di Frank Zappa? Le presenze sono svenute, quindi forse è meglio dopo. Ok. Su Chartres. Allora prendiamolo uno. Dog Brief in the Year of a Plug. Potrebbe essere. Vediamo. Ci piace. Vediamo come caschiamo, perché io conosco anche il Meat solo per il fatto che c'è una minchia tanta, che era il mio brano preferito. Però siamo ancora in fascia protetta. Beh, effettivamente. Ah! waste no time. Frosty dies on the riverbank. My night before is ready for time. Primer, Pikachu, child, Chevy 39. Going to El Monte Legion Stadium. Pick up on my Lisa, she's so divine. Helps me stealing up caps, waste all the time. Fuzzy dies, bongos in my bags. My ship of love, ready to attack. Won't you please hear my plea? Allora, dal 241esimo Coxo posso dirvi che la presenza in W dice che abbiamo scelto un buon brano da Uncle Meat. Perché sì, anch'io sto riuscendo a concepire un contatto astrale con queste presenze. Detto questo, informo sono presenze tutti. Presenze molto forti anche, sì. Quindi. Poi anche tu con la tua presenza che riesci a catalizzarle. E... cosa succede? Ti sta comunicando? La presenza mi sta comunicando. Cosa? Pare che la presenza, quella una delle presenze silenti, venga ascoltata. Venga ascoltata? È in radio qualcuno, c'è qualcuno che la sta ascoltando. Vediamo. Oltre ai nostri soliti fan. Ah, cioè allora sono Peppe, l'abbiamo. No, Peppe da San Donato voleva sì, ascoltare. Poi avevamo Laura. Stefano con Lou Reed e. Sì. E David Bowie, biografia. Ma abbiamo anche altri ascoltatori che non hanno messaggiato a 333-180-94-94. No, hanno 94, messaggiato 94. Alla presenza silente adesso. Ah, che ha un telefonino? Eh sì. Ah, però ste presenze silenti. Beh, sai com'è. Io me le immaginavo di qualche secolo ma fa. Ma che i fantasmi quelli con le catene. Qua vabbè, c'è gente. Scusami, ma no, è il 2 novembre che dobbiamo fare. Che spippolano, cioè insomma, vanno mica. Ok, no, vabbè, se mi dici così va bene. Quindi, comunque, a tutte le presenze in sala, in studio, a tutte le presenze in ascolto e anche a quelle nel soggiorno di Stefano, che adesso che abbiamo detto che ci sono Lou Reed e David Bowie, ci saranno finiti anche. Frank Zappa. Se c'è Prince, dagli uno struccone da parte mia, per favore, che mi ha mancato tanto, veramente. Manca tanto a tutti. Vabbè. Michael Jackson? Un po' meno, sì. Vabbè, insomma. Ci siamo abituati all'assenza di Michael Jackson, ecco. È vero, sì. Non vorrei infatti. Essere, però. Oh, senti questi rumori in sottofondo. Perché le sedie fa. Qui le presenze sono presenze che. Questa musichina ci aiuta. È molto da presenza che si avvicina. E vabbè, il 241esimo Cox con tutte le sue presenze sta avviandosi alla fine. E noi. C'è del dispiacere da parte delle presenze. No, una è sollevata, ma l'altra. No. Una piange. L'oracolo è sollevato. E continua a sgargarozzarsi la birra. C'è una prestazione l'oracolo, quindi. ma se sommiamo tutti e due i numeri che sono usciti, che numero otteniamo? Per sono caso 42? In matematica comunque mi sembra che 43 più 47 faccia più o meno 90. No, 89. No, fa 90. Proprio 90! La gallina canta! Allora dobbiamo cantare padovane. Tutte e due, visto che siamo padovane. Sì, ah, che meraviglia. Sono sicura che ci stiamo guadagnate un bel piatto di crescentine. Sì. Chissà dove. Ah, a proposito, 333-180-94-94 per dirci dove mi porterà Fedra a mangiare le crescentine, me e le presenze. Ma è arrivato un altro ospite. C'è un altro messaggio. Che dice? Leggi? qui Luca. Ciao. Ciao. Sì, sì, bravissima, è tutto. Ma la domanda è: alla fine del labirinto ci sono o no le crescentine? Se lo sapremo ce lo chiedi, te lo sapremo dire, Luca. Te lo sapremo dire alla 242esima puntata del Coxo. State con noi, anche se noi non ci saremo, forse mi collegherò telefonicamente da dove sarò per dirlo tramite la voce del W. Pasquini originale. Perfetto. E se il labirinto fosse rizomatico, però non è detto. Se il labirinto fosse rizomatico, magari staresti mangiando delle crescentine la settimana prossima. Perché potrei. Perché si può. Eh sì. A questo punto salutiamo tutti le nostre presenze. Laura, W, ormai che sei salita sul coxo, sai che quantunque e comunque puoi sempre tornare. Quando volete. E se li volete. E io tiro sul nastrone. Vai. Buona settimana a tutti. Buon weekend. Ciao presenze. Grazie. Salutano, salutano. Salutano tanto. Tutte e due. Busama, busama, busama. Oh, ma che nagosa, nagosa.